con Marco Paciotti di Onda d'Urto Teatro per parlare della nona edizione di INEUROF, Performing Arts Festival, a Roma, in due appuntamenti al Museo della Civiltà Romana 8 e 9 agosto e a Piazza San Cosimato 29 agosto 2019. Marco, ben trovato. Ben trovati a voi, grazie. Raccontiamo cos'è questo Performing Arts Festival. Nasce da un'idea di un brutto teatro e nasce dall'esigenza di riscoprire un po' quello che è il contatto con il pubblico, le arti performative. Noi ospitiamo sempre artisti sia italiani che internazionali che portano qui a Roma differenti discipline come nuovo circo, danza, teatro fisico, tutto quello che di solito a Roma è difficile trovare, ecco. Noi, essendo una compagnia che lavora molto all'estero, cerchiamo di fare un po' specchio di quello che succede culturalmente al di fuori dell'Italia, e spesso non viene così evidenziato. E fuori succede tanto e cose belle anche, e quindi cerchiamo fatica, con grossa fatica ma con grosso entusiasmo, di portare quelli che sono i nostri incontri fuori dall'Italia in Europa, qui a Roma, all'interno di questo festival in Europa. Quanti saranno gli eventi di questa edizione? Gli eventi saranno diversi e con diverse discipline e peculiarità. Avremo spettacoli di teatro urbano, spettacoli di danza, di teatro danza, di nuovo circo e performance di vario genere, poco definibili a livello italiano, ma che comunque sono artisti che lavorano in ambito nel teatro urbano, nelle arti performative in Europa. L'8 e il 9 all'Eur ci sarà Meraviglia di Onda d'Urto Teatro, che è uno spettacolo sulla riscoperta della natura e la salvaguardia del nostro paese. Quindi stiamo cercando attraverso questo spettacolo e attraverso una forma poetica e surreale, ma di difendere quel poco che ci rimane, insomma, del nostro ambiente attraverso la riscoperta delle stagioni. Poi ci sarà sempre all'Euro una performance di teatro danza con Amalia Franco, e invece il 29 da Piazza San Cosimato a Trastevere è tutt'altra tipologia di spettacoli. Ci saranno artisti dal Brasile, dalla Spagna, dalla Germania, dalla Lituania, dal Canada, che si alterneranno in un pomeriggio dalle 16 alle 19:30, colmo di spettacoli. Qual è stata la scelta di questi lavori? Noi per questi lavori abbiamo proprio in modo assolutamente limpido fatto una call aperta a cui hanno risposto degli artisti che abbiamo ovviamente visionato, contattato e invitato a questo festival. La motivazione della scelta è sempre un linguaggio universale in grado di comunicare ad un pubblico eterogeneo e di qualsiasi etnia, di qualsiasi linguaggio e di qualsiasi cultura. Noi crediamo profondamente nella spinta politica e comunicativa che l'arte deve riappropriarsi in questo periodo storico. Cerchiamo artisti che lavorano in strada, che non sono per forza artisti di strada, ma che sono abituati a lavorare in spazi non convenzionali e spazi urbani. Questa, bene o male, è la nostra scelta. E invece i due spazi per i quali avete optato? L'Eur, è lo spazio storico all'interno del quale si svolge da 9 anni la manifestazione. E poi cerchiamo sempre di connettere il centro storico, ovviamente, con questa zona dell'Eur che è un po' più, tra virgolette, periferica, non lo è più, però comunque è meno centrale. E questo è il secondo anno che ci troviamo a Trastevere. Trastevere che, almeno noi, di una generazione che è cresciuta lì a Trastevere, che l'ha vista trasformarsi e perdere un po' di identità. Quindi attraverso questa giornata, anche se poco, una sola giornata, ma cerchiamo un po' di ridare un po' di vitalità e di vita culturale ad un luogo che ormai lo sta perdendo. Ci racconti anche un po' dell'esperienza di Onda d'Urto? Onda d'Urto è un gruppo, una compagnia che è nata nel 2005 e ha fatto una scelta radicale, cioè quella di togliersi dai meccanismi del teatro un po' voglio dire borghese perché è un termine obsoleto, però di un circuito un po' vecchio che un po' stallava in Italia. Stiamo rischiando tutto, siamo usciti fuori dall'Italia, abbiamo creato un nostro linguaggio che è quello di una commistione tra danza, teatro, scenografie e il lavoro di luci e videoproiezioni, e abbiamo creato un linguaggio universale attraverso il quale cerchiamo di trasmettere quello che è il nostro pensiero su diverse tematiche. Ultimamente ci stiamo sempre più avvicinando a tematiche che ci sono vicine, quindi a tematiche socialmente che ci toccano di più. Terra Mia, l'ultima produzione con quale abbiamo debuttato a New York, è uno spettacolo che riguarda la problematica dell'identità, declinata in tanti e tantissimi modi. Tocca temi quali quelli dell'appartenenza a una terra, dell'appartenenza a un genere, dell'appartenenza, chiudiamo noi, a quello che è il genere umano, all'essere umano. Con quest'altro spettacolo, Meraviglia, stiamo toccando temi legati all'ambiente. Stiamo facendo quello che secondo noi è il nostro dovere, quindi attraverso l'arte cercare di dare dei messaggi che secondo noi possano servire. In chiusura, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Certo, allora, per qualsiasi informazione, per sapere degli spettacoli, degli orari e prenotazioni, potete scrivere una mail a info@ineurof.it, visitare il nostro sito web ineurof.it o anche venirci a trovare sulla nostra pagina Facebook Ineurof. C'è un numero di telefono che potete chiamare se volete una comunicazione più diretta, che è 345-7145-464. Ricordiamo la nona edizione di Ineurof Performing Arts Festival a Roma, Museo della Civiltà Romana, 8 e 9 agosto, Piazza San Cosimato, 29 agosto 2019. Un saluto e un ringraziamento a Marco Paciotti. Marco, grazie, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. A presto, grazie, ciao.